No. Il Comfort Access? L'ha già chiesto. Niente un optional, perché tutto è di serie. Mini Countryman nuova Baker Street Edition 102 cavalli. Tua a 23.400 euro con ecobonus mini ove applicabile e 5.170 euro di vantaggi inclusi. Scoprila in tutte le concessionarie mini su mini.it. Essere e avere. Che a noi il cibo non ce lo devono toccare. Che al telegiornale, quando fa molto caldo e l'esperto dice cercate di evitare cibi pesanti, mangiate molta frutta e verdura, e noi pensiamo, ma vamo riammazzato. Che a noi le cose che ci logorano non sono gli attentati, la mafia, i servizi deviati, a noi quello che ci logora è addentare un fiore di zucca fritto e non trovarci acciuga. Queste sono le cose che ci sfiniscono. Il vino che sa di tappo, le linguine sciape, il riso scotto. Ecco i disagi che, se ripetuti, possono farci scendere in piazza. Focus sui trend. Il mondo del cibo, produzione, ristorazione e distribuzione si misura con nuove istanze di consumo e nuovi parametri di scelta. Parole d'ordine come biodiversità, antispreco danno luogo a nuovi prodotti e servizi. Oggi attraverso il cibo, inoltre, si sperimentano nuovi format nel retail e nella distribuzione, perché il cibo fa tendenza, diventa anche territorio di innovazione e di sperimentazione. Lo rivelano i casi che ha selezionato per noi Isabella Guaitoli di Future Concept Lab. Ciao Isabella, ben trovata. Ciao Maria Luisa, buonasera a tutti. Partiamo dalla prima parola d'ordine che abbiamo citato, biodiversità. Biodiversità, quindi la varietà biologica, no? La ricchezza di piante e anche proprio ecosistemi, tutti indispensabili, diciamo così, alla vita sulla Terra, ma anche alla nostra. È interessante segnalare una campagna che il WWF ha fatto, Future 50 Foods, promossa insieme a una delle maggiori aziende del settore food al mondo, quindi la CNOR. Cosa hanno fatto? Hanno stilato un elenco di 50 ingredienti di origine vegetale che i consumatori, ma anche gli chef, possono incorporare, no, nei propri pasti per diversificare la dieta, ma anche proteggere le specie in via di estinzione. 50 ingredienti speciali che vanno sia da ingredienti che conosciamo bene, quindi lenticchie, riso selvatico, cavolo, a cibi un po' meno noti. Per esempio c'è il fonio, che è un antico cereale africano. Tra l'altro questi vegetali sono più resistenti, hanno anche rese più elevate rispetto alle colture più diffuse, e quindi in futuro potrebbero rivelarsi preziosi di fronte, per esempio, alla crescente incertezza climatica, no, che ci troviamo ad affrontare. Invece, tra i casi più applicativi, diciamo così, di questa filosofia pro biodiversità, mi piacerebbe segnalarvi un ristorante a New York, ad Harlem, che propone un menù biodiverso e si chiama Teranga. È un ristorante africano e dopo un anno solo dall'apertura sta avendo un grande successo. Il proprietario, che è anche lo chef, Pierre Thiam, ha pensato di contribuire a salvare la biodiversità del pianeta inserendo le colture sottoutilizzate proprio all'interno dei suoi menù. Cresce l'attenzione allo spreco alimentare. Lo scorso 5 febbraio si è celebrata come ogni anno la giornata nazionale contro lo spreco alimentare, che ha messo in evidenza i numeri del fenomeno. Ogni anno in Italia 15 miliardi di euro di cibo vengono sprecati, di cui 13 nella sfera quotidiana, in media 65 kg di cibo pro capite. A livello globale il cibo gettato ha un costo di 2,6 trilioni di dollari l'anno, pensate. Contro questo fenomeno sono entrate in campo le app antispreco. Nel tempo abbiamo raccontato la loro nascita o il loro arrivo in Italia. Ricordiamo di che cosa si tratta. Sono delle app piuttosto semplici che permettono alle persone di acquistare a un prezzo scontato da ristoranti, ma anche negozi di zona e poi anche supermercati, i cibi in scadenza, che quindi, se non sono venduti entro la giornata, purtroppo per legge e per questioni di igiene vanno buttati, no? Queste app funzionano segnalando a chi le usa le offerte antispreco del giorno e dove trovarle, e poi danno la possibilità per esempio di prenotarle e poi passarle a ritirare o anche comprarle direttamente online. In Italia la prima è stata Last Minus Sotto Casa, che è nata prima come una community antispreco sul web, poi è diventata una vera e propria app che cosa fa? Mette in contatto i negozianti con una rete di clienti in zona. Da qualche tempo è sbarcata anche in Italia un'app che in Europa ha più di 9 milioni di utenti, si chiama Too Good To Go, e nelle sue Magic Box si possono trovare appunto questi piatti antispreco e costano solo tra i 2 e i 6 euro per un pasto. Interessante anche in Svezia un'app antispreco che si chiama Karma, che ha proposto però un'iniziativa interessante con Electrolux, quindi l'azienda produttrice di elettrodomestici, anche lei svedese, ecco. Insieme stanno testando un frigorifero intelligente all'interno della stazione centrale della metropolitana della città. I consumatori possono acquistare i cibi scontati sull'app e poi ritirarli direttamente da sé in metro. Un'altra iniziativa nostrana invece che vi segnalo arriva da un'app che non è antispreco, ma è un'app di food delivery tra le prime al mondo perché è Just Eat, che in occasione appunto della giornata nazionale contro lo spreco ha lanciato il piatto buono. Proprio dal 5 febbraio in diversi ristoranti tra Milano, Torino, Roma e Napoli si può ordinare o aggiungere anche al proprio ordine a domicilio un piatto buono contro lo spreco con un prezzo anche qua scontato tra i 3 e i 7 euro, che viene presentato dai ristoranti che aderiscono ed è diverso ogni giorno in base alla disponibilità di questo surplus di ingredienti, no? Per ogni piatto buono che si ordina per sé, Just Eat ne dona un altro a una comunità, per esempio le case di accoglienza, no? Quindi in collaborazione con le Caritas delle varie città in cui c'è questo servizio, e lo recapita con consegne mensili di pranzi e di cene. Un tema molto importante, quello dello spreco di cibo, anche nel mondo della ristorazione, dove il successo di un locale dipende anche dalla sua capacità di valorizzare la materia prima senza sprecarla, appunto. Il prossimo caso ci parla di uno strumento molto utile, molto interessante. È un dispositivo creato da una startup di Singapore che si chiama Lumitix. Il dispositivo si chiama Insight e serve proprio a aiutare le realtà imprenditoriali a non sprecare. In pratica si tratta di un dispositivo che si integra nel cestino, quindi del pattume standard, per tracciare i rifiuti alimentari. Come fa? Utilizza dei sensori, l'intelligenza artificiale appunto, e una tecnologia di riconoscimento delle immagini e di analisi dei dati che sono state create ad hoc proprio per identificare e valutare la quantità di rifiuti alimentari che una cucina sta generando. E i dati raccolti sembra proprio che aiutino le aziende a ridurre anche del 30% gli sprechi alimentari e risparmiare l'8% dei costi. Oltre al fatto di capire anche meglio quali sono le preferenze dei clienti o le tendenze stagionali, quindi assolutamente molto utile. Sicuramente un modello, un prototipo anche eventualmente per un futuro uso a livello domestico. Passiamo alle sperimentazioni, alla nascita di un fenomeno molto singolare. Dopo il co-working arriva il co-cooking, raccontaci. Nei grandi centri urbani si sta osservando come nascono sempre più numerose delle cucine laboratorio, in cui le persone possono cucinare insieme oltre che mangiare, o addirittura delle cucine laboratorio che sono dei veri e propri hub in cui gli aspiranti ristoratori possono testare le proprie capacità e cercare supporto proprio come vere start-up. In America un esempio interessante di questo fenomeno sicuramente è WeWork Food Lab, che oltre a essere un luogo, quindi una cucina fisica, è un vero e proprio programma creato da WeWork, che è il colosso del co-working, per aiutare gli innovatori in campo alimentare ma anche agricolo, fornendo gli strumenti e le risorse di cui hanno bisogno per creare soluzioni sostenibili. Invece, ecco, si diceva, il co-cooking non è solo per i professionisti, e in paesi come il Giappone, ad esempio, si stanno aprendo delle cucine comuni che sono sia per le aziende ma anche per i privati. E in questo caso vi segnalerei il Kitchen Studio Suiba a Tokyo, che è stato progettato come spazio e una cucina da prenotare, da affittare, in cui le persone appunto possono andare non solo per mangiare in compagnia, ma anche proprio per cucinare l'una per l'altra. Ci restano 30 secondi per le ultime due segnalazioni. Parliamo dell'applicazione di un modello di successo, quello della subscription economy, della Netflix economy, anche chiamata, alla ristorazione, quindi con una nuova definizione, il flat food. Sì, il flat food è una nuova modalità, per ora solo sperimentale e italiana, con la quale appunto, come hai detto tu, si può andare al ristorante in modo flat, pagando un prezzo fisso, in abbonamento mensile però, e mangiare così a volontà in un locale specifico. E la prima sperimentazione in Italia arriva da Limena, in provincia di Padova, dove c'è il ristorante We Do, che offre a 149 euro al mese proprio un abbonamento flat food, comprende dall'antipasto al dolce, si può andare tutte le sere a cena e anche fare il take away. Isabella Guaitoli, grazie, alla prossima. Grazie a te Maria Luisa, arrivederci a tutti. Il consumautore. Ci ha raggiunto in studio, come sempre, per la riflessione finale il sociologo dei consumi Francesco Morace. Ben trovato Francesco, vedo già un libro sul desk, da dove partiamo? Sì, buonasera Maria Luisa. Partiamo da un libro di Mauro Magatti. Abbiamo spesso commentato i suoi libri, sono sempre importanti e ci danno sempre delle nuove dimensioni di pensiero sul futuro e sul futuro sociale. Il libro si chiama Non avere paura di cadere, è molto importante però il sottotitolo, La libertà al tempo dell'insicurezza. Quello che Magatti, grande sociologo e anche molto impegnato nel mondo, diciamo, del sociale, ci spiega è che oggi l'idea di una libertà incondizionata, quindi ancora una volta il consumautore che spesso dimentica poi di dover anche rispettare, no, alcune regole o alcuni limiti, rischia di creare ancora più precarietà, ancora più insicurezza. E bisogna invece, ed è molto bello il capitolo finale del libro, lavorare su questa idea di essere acrobati della libertà, no? E quindi di trovare il giusto equilibrio, anche un po' equilibristi mi verrebbe da dire, il giusto equilibrio tra una libertà che è personalizzazione, soggettività, quello a cui certamente nessuno mai rinuncerà, e alcune però regole, e soprattutto a un bene comune che deve essere preservato. L'idea di cadere dal filo è anche legata al fatto che il coraggio di sperimentare ti porta anche a sbagliare, in questo senso non avere paura di cadere perché poi ti puoi rialzare, e noi italiani su questo siamo molto timidi, no? Ecco, allora da questo punto di vista essere acrobati nella libertà significa anche, conoscendo bene un sistema di regole definito, quali possono essere gli elementi di libertà, no? Di movimento per innovare e pensare anche a percorsi nuovi dal punto di vista del consumo, ma anche della vita quotidiana, della vita sociale. Grazie a Francesco Morace, grazie a Paolo Corleone in regia. Essere Avere torna domenica prossima, non mancate. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.